Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note del concerto numero 2 per pianoforte e orchestra di Brahms iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica ad Andrea Battistoni. Grazie mille a voi. E Andrea Battistoni, il concerto numero 2 di Brahms sarà una delle esecuzioni che farà questa sera ad Assago nell'ambito di Mito, proprio come direttore d'orchestra, perché Andrea Battistoni, per chi non lo sa, è direttore d'orchestra, è uno dei più giovani, forse il più giovane direttore d'orchestra italiano, e ha 25 anni già compiuti. Già compiuti, a 25 anni, è già salito sui podi dei teatri più famosi del mondo, possiamo dire. È stato nei giorni scorsi a Rimini a dirigere la Filarmonica della Scala e invece questa sera ad Assago dirige... Siamo con la Filarmonica della Scala per un programma meraviglioso, io credo, come abbiamo accennato, il secondo concerto per pianoforte orchestra di Brahms e i quadri di un'esposizione di Mussorgsky orchestrati da Ravel, in un luogo particolare come il Forum di Assago, dove di solito troviamo i gruppi rock e le grandi pop star, per la prima volta un'orchestra sinfonica. Un palazzetto dello sport, ecco, lei è un po', diciamo, anticonformista, anche qualcuno sottolinea il fatto che non dirige col frac, che sembra una delle cose che sono indispensabili per un direttore d'orchestra, però anche il portare la musica al di fuori dei teatri tradizionali vuol dire un po' cercare di avvicinare la musica classica, soprattutto ai giovani, a un pubblico sempre più vasto. Questa è un po' una missione. Beh sì, più che una missione, credo sia doveroso da parte degli artisti classici trovare oggigiorno nuove maniere di avvicinare questa nostra musica a un pubblico che, si deve dire, non la mastica tutti i giorni, probabilmente. Penso soprattutto ai miei coetanei, ai giovani che non hanno magari mai avuto occasione di avvicinarsi a questo genere. Io credo che iniziative come questo, portare la musica fuori dai teatri, che vengono guardati ogni tanto dai ragazzi, da persone che non conoscono questo genere di musica, con un certo timore reverenziale in realtà, perché io non voglio fare lezione a nessuno né tacciare di ignoranza, semplicemente molte persone non si sono mai avvicinate a questo genere di musica, e credo che portarla in luoghi dove si può fruirla quasi come a un concerto pop, un concerto rock, in mezzo a tante persone, sia un esperimento notevole. Penso all'Arena di Verona, dove io dirigo ormai da un paio di estati, e che è poi il teatro della città dove sono nato. Quello è uno splendido esempio di tante persone che si riuniscono per godere semplicemente di una serata di musica, e al di là di confronti, di paragoni con il passato, al di fuori dell'atmosfera che può essere a volte così un po' troppo paludata del teatro tradizionale. Certo, un teatro tradizionale che ha bisogno anche di essere rilanciato, e poi chi va appunto al Forum d'Assago può essere tentato anche di andare poi alla Scala a sentire le opere. Quindi è un modo per portare appunto la musica al di là dei pregiudizi e dei luoghi comuni che molto spesso ci sono attorno alla musica classica. Lei ha accennato a Verona, ha diretto la Turandot nell'ultima stagione, che si è conclusa da pochi giorni, la sua città natale. Allora, come mai da Verona, che cosa ha fatto scattare questa, in un giovane, penso da più di 10 anni, forse la prima volta che ha preso uno strumento musicale, che cosa ha fatto scattare questa passione per la musica? Beh, io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove la musica è sempre stata importante. Mia madre è pianista, mio padre è un grande appassionato, sia io che mio fratello abbiamo studiato uno strumento da bambini, anche se in realtà non avevo nessuna intenzione di fare il musicista nel mentre cominciavo questi studi che affiancavano la scuola normale, insomma, e poi il liceo. Improvvisamente ho scoperto l'orchestra suonandoci, cominciando a suonare in orchestra, da quella del conservatorio e tante altre in cui ho suonato da ragazzino, e mi sono reso conto che veramente era quello il fine di tanti studi, di tanti sforzi, perché chiunque studi uno strumento da ragazzo conosce le ore passate con il proprio strumento un po' in solitaria nella propria cameretta a cercare di far uscire delle note da uno strumento, anche a volte con un po' di scorno, di insoddisfazione. Finalmente volte avevo realizzato suonando in orchestra del perché ci si debba impegnare così tanto, del perché si debba padroneggiare uno strumento, per mettere in comune la propria conoscenza musicale con gli altri e fare musica insieme agli altri e creare questo strumento fatto di tanti strumentisti, di tante persone, quindi una cosa eccezionale, quasi magica, che può venire a sua volta suonata dal direttore d'orchestra. Ecco, il direttore d'orchestra deve conoscere tutti gli strumenti, deve conoscere le partiture, quindi è un mestiere difficile. Come si fa a imparare in poco tempo? Beh, è un mestiere, io credo, che non si smetta mai di imparare. Questo lo dicevano e lo dicono anche i grandi maestri. Penso a Toscanini, che è arrivato a 80 anni sul podio e ancora dirigeva e ancora diceva: ho molto da imparare, quindi io sono veramente appena agli inizi. Sì, non, poi non c'è un'esecuzione uguale all'altra. Mai, no. Ecco, la prima volta che è salito sul podio, qual è stato il sentimento che ha più sentito? Più la paura, più la fiducia verso chi aveva di fronte, più la ricerca di un consenso, più magari il tentativo di dare qualcosa di personale in modo da far capire che insomma aveva qualcosa da insegnare, anche appunto in un rapporto di fiducia, di collaborazione poi con gli orchestrali, come deve esserci. No, il primo pensiero è stato quello di trovarmi nel mio habitat naturale, musicalmente parlando. Io appunto suonavo il violoncello, ho studiato tanti anni il violoncello, mi sono diplomato, ma avevo sempre visto il violoncello non come un amico, una propaggine di me stesso, come sentono tutti i grandi solisti, un rapporto simbiotico col proprio strumento. Dovevo sempre un po' lottare per far uscire la musica. Quando sono salito sul podio mi sono accorto che quello era veramente il modo naturale per me di fare musica. D'altra parte il direttore d'orchestra ha un grande lusso, quello effettivamente di non suonare. Io lo dirò tutta la vita che cantare e suonare è molto più difficile che dirigere un'orchestra. Beh, sono mestieri diversi, forse. Certo, sono ma d'altra parte proprio perché il direttore d'orchestra ha il lusso di pensare solo alla musica, di leggere esclusivamente le partiture e fare musica con altri musicisti, deve chiaramente essere molto preparato. Poi torniamo a Verona, al direttore d'orchestra. Se non avesse fatto il direttore d'orchestra, cosa avrebbe voluto fare? Il pompiere, l'astronauta, l'avvocato? Ma probabilmente lo scrittore. A me piace molto leggere, sono un avido divoratore di libri, una media di 2,5 a settimana. E sì, avrei probabilmente scritto. Quindi lo scrittore, non il giornalista? No, non proprio lo scrittore, il romanziere. Giornalista, forse il giornale è un po' l'immagine diversa appunto di un'orchestra. Tante persone che devono collaborare, poi un direttore che deve farle unire, farla diventare un po' un'armonia anche il giornale, non è sempre facile. Torniamo a Verona anche perché lei a fine mese avrà il premio Masi sulla civiltà veneta, la motivazione per la vitalità artistica che caratterizza la sua giovane carriera di direttore d'orchestra e il suo costante impegno nella diffusione della musica classica tra le nuove generazioni, nella convinzione che la rinascita virtuosa dell'Italia si realizzi anche riformando l'educazione musicale nelle scuole. Quindi un riconoscimento della civiltà veneta, delle sue origini venete, che rimangono, è molto legato alle origini venete. Sì, io sono molto legato a Verona, diciamo, ed è stata in realtà un amore che si è formato abbastanza recentemente, perché come tutti i ragazzi nati in una città, diciamo così, di provincia, ho avuto il mio periodo di rifiuto dall'adolescenza della piccola città. Poi ho cominciato a viaggiare, grazie a Dio, a viaggiare molto per lavoro. Sono stato spesso all'estero e improvvisamente è nata in me, proprio non stando a Verona, questa nostalgia della città. E oggi ho casa a Verona e ci torno sempre con grande piacere, oltre a sentire in maniera molto forte le radici. Beh, poi Verona è una città certamente non piccola, forse la più grande tra le piccole, la più piccola tra le grandi, ma a livello musicale non ha nulla da invidiare agli altri, non solo con l'Arena ma con le altre iniziative, quindi si respira un po' la musica a Verona. Sì, è una città completamente immersa nell'arte, molto spesso noi non ci rendiamo conto, ma questo si può dire di tutta l'Italia, che probabilmente non ci rendiamo conto che stiamo bevendo uno spritz seduti su un troncone di colonna romana, e questo è una cosa che fa sempre meditare. Siamo circondati dalla bellezza e Verona sicuramente non sfugge a questo. Inoltre c'è una bellissima vita culturale, musicale, come accennava. E anche letteraria, ripensando non solo a Giulietta e Romeo, ma anche ai letterati, appunto, agli scrittori che sono sorti, che hanno avuto ispirazione a Verona, appunto il premio Civiltà Veneta, basta leggere i premiati nelle sue 31 edizioni, mettono appunto in luce questa grande realtà di un Veneto che è un Veneto che sa, che si è trasformato indubbiamente, che però sa anche essere non solo produttivo, non solo problematico, non solo forse confuso da un punto di vista della programmazione territoriale, ma un Veneto che ha anche delle radici molto forti che crescono dal punto di vista culturale. Senza dubbio. Ecco, su questo fronte, parlando del Veneto, abbiamo accennato un po' ai problemi della logistica e della confusione programmatica. Diamo un piccolo spazio alle notizie sul traffico. Incontri. Ancora con le note del concerto numero 2 di Brahms, riprendiamo il nostro incontro con Andrea Battistoni, direttore d'orchestra, uno dei più giovani direttori d'orchestra italiani, classe 1987. Abbiamo sentito nella prima parte la sua esperienza, originario di Verona, tra l'altro riceverà nei prossimi giorni il premio della Civita Veneta e ha iniziato molto presto a calcare le scene, a salire sui podi dei maggiori teatri del mondo. Allora, Andrea Battistoni, qual è stato il teatro più emozionante, il teatro in cui si è sentito, in cui prima di salire quel gradino ha detto, bah, speriamo di farcela? Ma ce ne sono stati tanti, sicuramente l'Arena di Verona è stato un teatro che mi ha dato una grandissima emozione, qualcosa di vicino veramente al timore di salire sul podio, perché a quel teatro sono legate tante e tante memorie. Io, fin da quando sono bambino, i miei genitori mi portavano all'Arena di Verona a scoprire l'opera, a godere dell'opera in una maniera popolare nel senso più bello e più ricco del termine, come si faceva una volta. Un tempo l'opera era un fenomeno così, si fischiettavano le aree per la strada, si discuteva dei soggetti, delle trame, ci si appassionava veramente, un qualcosa che forse si è un po' perso e che invece all'Arena di Verona continua a vivere. E sicuramente un modo di fare musica molto stimolante, e essendo legate tutte queste emozioni a questo teatro, sicuramente è stata una prova notevole salire. Sì, anche perché è un luogo dove il pubblico partecipa molto, attivamente, molto. Non solo con le candeline che sono poi un effetto scenografico che ogni tanto si realizza, ma anche appunto sentendosi vicino, quasi guardando, vivendo appunto lo spettacolo, l'orchestra, un po' in questa magnificenza poi di questi spettacoli che hanno uno spazio anche diverso da quello del teatro e quindi forse avvicinano un po' anche la realtà popolare. Ma all'estero qual è il paese dove si è sentito più vicino, più in grado di vincere una sfida? Ma senza dubbio sento molto vicino alla Russia. Io sono stato spesso a San Pietroburgo e per qualche strana ragione, nonostante io non abbia nessuna origine slava, nessun sangue slavo, mi sento molto vicino al linguaggio musicale russo, tant'è che questa sera al Forum di Assago eseguiremo i quadri di un'esposizione di Mussorgskij, un autore che ho affrontato spesso insieme a Tchaikovsky, insieme a Rachmaninov. È una sensibilità che è sempre portata alle estreme conseguenze, che ha molta somiglianza col modo di esprimerci anche di noi italiani. C'è una grande attenzione alla passione, alla profondità. Sì, forse c'è anche una cultura musicale in Russia un po' più approfondita, una partecipazione, sentono più loro anche questi autori che rappresentano un po' la realtà nazionale. In Italia ne abbiamo, quest'anno festeggeremo i 200 anni di Verdi, forse lo valorizziamo un po' poco. Ma più che altro siamo, come dicevamo prima, assolutamente abituati a essere circondati dalla bellezza, dalla ricchezza della storia di questo nostro paese, e possiamo quasi a volte permetterci il lusso di dimenticarlo, una cosa che in realtà non dovremmo permetterci, anzi dovremmo ricordarci di quanto importanti siano queste radici, questa nostra ricchezza. Sarà una bella occasione l'anno prossimo festeggiare Verdi insieme a Wagner, per carità, esatto, non dimentichiamocelo, ma festeggiare il nostro Beppe Verdi, che è forse, io credo, se chiediamo all'estero qual è l'artista, il personaggio storico più rappresentativo dell'Italia, secondo me se la batte bene Verdi con Dante nelle risposte, per cui dobbiamo veramente festeggiare bene questo compleanno. Ecco, torniamo al tema delle scuole, dei giovani. Lei ha scritto un libro, Non è musica per vecchi, edito da Rizzoli, in cui si dice appunto che l'opera lirica e la musica sono le ambasciatrici più potenti dell'Italia nel mondo, la voce stessa dell'Italia. Ma poi in questa rappresentazione dell'opera lirica, della musica italiana, c'è un problema di portare i giovani verso la musica. Nelle scuole si fa troppo poco, anzi quasi nulla. Diciamo che nelle scuole il tutto è molto disordinato e lasciato un po' all'improvvisazione. Io ho abbastanza criticato l'impostazione dello studio della musica attraverso il flauto, eccetera. Non voleva essere una critica degli insegnanti, che anzi ne conosco e ho tanti amici in questa categoria e sono degli eroi, perché sono veramente lasciati alla creazione personale di un sistema che non è gestito dall'alto. Sono stati fatti tanti errori, secondo me, nella costruzione dell'istruzione musicale in Italia. Ad ogni modo, quello che un interprete può fare, quello che un musicista può fare, è cercare appunto di portare al di fuori del teatro questa sua passione, cercare di far conoscere in tutte le maniere questo tipo di musica, soprattutto cercando di far comprendere che non è tanto una questione di cultura. Non sono qui per fare lezione ai miei coetanei su questa musica, io sono qui per far capire loro che è un mondo che può veramente comunicare delle emozioni profonde. Senza la musica sinfonica, la musica lirica, la mia vita sicuramente, ma penso un po' la vita di tutti, sarebbe leggermente meno ricca di emozioni. E se siamo qui a distanza di secoli, di tanti anni, noi musicisti, a studiare, a spremerci le meningi su queste partiture che questi grandi geni di compositori ci hanno lasciato, vuol dire che veramente c'è un grande valore in queste pagine e che possono parlarci, certo, ancora a distanza di tanti secoli. Peraltro la musica è un linguaggio universale, non ha bisogno di traduzioni. Ecco, proprio guardando alle partiture dei nostri grandi del passato, 200 anni fa, Giuseppe Verdi, lei pensa che la musica vada interpretata, vada modernizzata o vada sempre più resa fedele all'originale, alla volontà di chi l'ha scritta, essere fedele ai tempi, o va adattata ai tempi moderni, ai gusti moderni? Ma guarda, la musica dall'interprete va vissuta con tutto se stesso e con una grande onestà. È sempre un po' una chimera parlare di interpretazione fedele all'autore quando si parla di questo tipo di musica, perché i compositori cosa ci hanno lasciato? Dei fogli di carta con dei pentagrammi sopra, con alcune indicazioni a parole che però non possono restituirci appieno il loro pensiero. Quindi il pubblico non ascolta tanto quello che il compositore ci ha lasciato, ma piuttosto quello che in tutta onestà l'interprete crede lui stesso che il compositore ci abbia voluto dire, e quindi c'è chiaramente il segno dell'interprete. Ecco, però certe contaminazioni di certa musica contemporanea con la musica classica forse fanno più male ad entrambe, la musica contemporanea e la musica classica. Bah, dipende, il crossover va gestito sempre con molta attenzione. Io credo che sia molto più di valore, molto più interessante valorizzare gli aspetti veramente propri, intrinsechi di ogni genere musicale che non mescolarli, quindi fare al meglio un genere con le sue proprie caratteristiche senza cercare di fare confusione. Ecco, in una recente intervista lei ha dato alcuni titoli di brani musicali indispensabili per chi vuole avvicinarsi alla musica classica, tra l'altro appunto i quadri dell'esposizione di Mussorgsky fanno parte di questa categoria. Un consiglio appunto, oltre ai quadri dell'esposizione, per chi voglia appunto un giovane che si dice: ma la musica classica mi sembra qualcosa di lontano, voglio capire che cos'è, un altro brano? Ma un brano che conosciamo tutti e che spesso ci dimentichiamo di ascoltare per intero. Pensiamo al primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven. Più famoso di questo probabilmente non c'è niente nell'ambito della musica sinfonica. Eppure ecco, ricordarlo magari da direttore. Ta ta ta ta. Ecco. Ecco, abbiamo ben presente. Tutti lo conosciamo, probabilmente ce l'abbiamo anche come suoneria del cellulare. Sì, qualcuno sì. Ma riascoltarlo, riappropriarci di quello che Beethoven voleva dire, la ribellione, la forza di rompere con gli schemi del passato, il desiderio di confessarsi di quest'uomo, è stato un musicista tra i più geniali della storia, uno dei più grandi compositori di sempre, sordo, che non poteva ascoltare la propria musica, e quindi la rabbia quasi disumana che traspare da questa musica. Ecco, io credo che siano messaggi che quasi dall'oltretomba, dal passato, arrivano con una forza straordinaria al giorno d'oggi. Sì, una forza appunto di riuscire a sfidare le cose, di riuscire a sfidare il mondo, di dare coraggio, di avere coraggio che tutto in fondo è possibile. Cioè Beethoven ci ha lasciato delle grandissime composizioni, al di là delle sinfonie, dei concerti, indubbiamente che vanno ascoltate e che vanno capite, ma capite anche con il nostro metro, con la nostra capacità di capire questa musica. In fondo la musica è qualcosa che non deve accompagnare alla lontana, può anche accompagnare alla lontana quello che facciamo, ma deve essere anche in fondo vissuta, deve essere anche interpretata con l'orecchio di chi l'ascolta, e questa forse è la difficoltà maggiore. Ma sì, in realtà è il bello anche di questi grandi capolavori, che attraversano la storia e si adattano a qualsiasi sentimento. In un certo senso, dove sta la grandezza di questa musica? Ogni uomo è solo, è un po' un'isola rispetto agli altri, e prova delle emozioni, prova delle sensazioni. Nel momento in cui si ascolta questa musica ci rendiamo conto veramente che altre persone hanno vissuto i nostri stessi traumi o le nostre stesse felicità, i nostri stessi drammi, le nostre stesse esaltazioni e in un certo senso non siamo più soli, comunichiamo con queste grandi anime. Anche perché appunto l'orchestra di cui abbiamo parlato è qualcosa che comunica una grande realtà che supera l'età della musica, di musica appunto composta 200-300 anni fa e supera anche l'età del direttore, se possiamo dirle, forse è una domanda che le hanno fatto spesso, ci saranno magari un primo violino o i componenti dell'orchestra che hanno decenni di esperienza. Sì, assolutamente. E che può essere magari difficile cercare di dare degli ordini. Ma spesso si pensa al direttore d'orchestra, forse sul modello di Toscanini o di Karajan, come un dittatore, uno che controlla appunto a bacchetta i suoi musicisti. In realtà non è più così, ma non è così nemmeno da parte di grandi direttori con tanta carriera alle spalle. Oggigiorno si collabora con l'orchestra, si propone un'interpretazione, ma soprattutto si cerca di costruirla insieme. Ovviamente il direttore deve dare le linee guida dell'interpretazione, ma sta tutto alla sua capacità di convincimento, da quanto sia valida la sua idea musicale. Qualora ci sia preparazione e appunto un supporto alle sue idee e alle sue convinzioni, non si incontrano mai problemi con i professori. Ecco, il direttore d'orchestra mi diceva che in fondo il compito principale del direttore viene prima del concerto, poi potrebbe anche non esserci, e se l'orchestra ha seguito, ha fatto delle prove fatte bene, poi il concerto va un po' da solo. Sono abbastanza d'accordo, le prove sono il momento fondamentale dell'attività di un direttore. È lì che veramente si costruisce l'interpretazione con l'orchestra e di fatto io sono molto agitato sempre alle prove, sono molto in ansia perché si cerca di perseguire il risultato che si ha semplicemente immaginato leggendo le partiture. Poi durante il concerto, per il direttore almeno, è il momento dell'arte, della fantasia, veramente ci si può lasciare andare, cercare di far rendere al meglio l'orchestra. Ecco, si sente anche di dover far capire attraverso i movimenti del direttore la forza di una musica, cioè ogni tanto il direttore sembra agitarsi un po' troppo, fare un po' di scena, ecco, detto tra virgolette. No, in realtà ogni gesto del direttore dovrebbe essere finalizzato a un messaggio per gli strumentisti: più piano, più forte, qui andiamo più veloce, qui rallentiamo un poco. Fa tutto parte di questa interpretazione che si costruisce insieme, oltre ovviamente a battere il tempo, che è una cosa fondamentale. Il direttore d'orchestra è il punto di riferimento del tempo per tutti quanti i musicisti. Qual è il suo prossimo obiettivo come direttore d'orchestra o magari come compositore? Ma gli obiettivi sono tanti, i sogni sono tanti, per fortuna. Un sogno grande è quello veramente, adesso appunto si dice il più giovane direttore in questo teatro, il più giovane direttore in quell'altro teatro. Io spero di diventare il più vecchio direttore di un importante teatro. Vorrà dire che sarò riuscito a mantenere il mio livello, a costruire non tanto una carriera, che è una parola che non mi piace, ma un percorso artistico, un percorso musicale che mi abbia dato soddisfazione e che abbia fatto stare bene le orchestre con cui ho lavorato, e poi sicuramente prima o poi proporrò anche la mia musica, speriamo. Lo aspettiamo, magari per quando ci sarà la prima esibizione di un'opera di Andrea Battistoni ne potremo parlare insieme. Intanto in bocca al lupo per la serata ad Assago, sicuramente un luogo insolito e difficile per un'orchestra classica, ma l'Orchestra Filarmonica della Scala che lei dirigerà, e andrà tutto per il meglio. Assolutamente, grandi musicisti. La ringrazio a crepi il lupo. Grazie ad Andrea Battistoni di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Filippo Reggi in regia e Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, potrà essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e l'appuntamento con Incontri per domenica prossima.